Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, Wondi, quando una donna si trasforma in supereroina per sconfiggere il cancro. La storia vera di Francesca Del Rosso, raccontata con ironia. Margherita De Bac con Per fortuna c'erano i pinoli. Le novità in libreria. Un po' prima di parlare di questo libro, non perché abbia dei dubbi sulle qualità di questo libro, ma perché la scrittrice è una mia cara amica, quindi ho detto devo assolutamente dichiarare, come dire, il mio conflitto di interessi. Poi insomma ho pensato che dal punto di vista narrativo è un libro ottimo, dal punto di vista dei contenuti e del messaggio che manda altrettanti, quindi ho detto va bene, allora dichiarerò questa cosa all'inizio dell'intervista e chi insomma ha fiducia nelle mie capacità di obiettività la prenderà per quello che è. L'autrice è Francesca Del Rosso, ha pubblicato per Rizzoli Wondi, ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro. La parola cancro nel sottotitolo può far spaventare, in realtà questo è un romanzo autobiografico sicuramente, ma con una certa punta di ironia, perché insomma Francesca Del Rosso racconta in questo romanzo come ha affrontato il suo cancro al seno, come l'ha superato, e quindi è un libro ottimista, è un libro che dice caspita, allora ce la si può fare insomma. Francesca, allora, innanzitutto perché hai deciso di raccontare la tua storia, insomma, di una cosa così dolorosa in un libro? Insomma, ti sei messa completamente a nudo, hai raccontato i tuoi sentimenti personali, come è nata la tua storia d'amore, come in coppia avete vissuto la malattia, hai parlato dei tuoi figli, insomma, hai l'impressione di esserti un po' esposta troppo? Beh, sicuramente mi sono esposta abbastanza, diciamo che rimane comunque un romanzo, quindi c'è una distanza tra quella che sono io come persona e poi la persona, la Wondi che io racconto nel libro. La verità è che ho deciso comunque di raccontare la mia storia, seppur romanzata, perché ho capito attraverso un blog che già tenevo da alcuni mesi che condividere un'esperienza personale così forte potesse essere veramente d'aiuto per gli altri. Quindi nel momento in cui ho veramente recepito che le mie parole, i miei consigli, ma anche semplicemente il mio dare voce ad alcuni sentimenti, ad alcuni pensieri potesse fare bene, ho deciso che potevo avere anche il coraggio di scriverlo. Sì. Allora, il blog a cui facevi riferimento è il blog Le Chemio Avventure di Wondi, che è stato circa un anno, è tuttora presente sul sito online di Vanity Fair. E da lì è nato un po' il personaggio di Wondi, anche se Wondi è un nome a te caro, perché era un soprannome che ti davano da ragazzina. Sì, in realtà Wondi era un soprannome che mi è stato dato durante gli anni dell'università, quando io facevo mille cose, lavoravo, studiavo, vivevo a casa da sola in un micro monolocale di Milano, e quindi molti miei amici che invece studiavano e basta e già faticavano così mi dicevano ma tu cavolo sei una mini Wonder Woman, e da quel momento Wondi mi è rimasto un po' appiccicato addosso. Chiaramente nel momento in cui poi ho scoperto di avere un cancro e ho affrontato questo momento difficile della mia vita, ho anche scoperto di avere una Wondi dentro di me veramente, e credo che un po' tutti abbiamo dei superpoteri che spesso sono nascosti ma che per fortuna nei momenti più difficili duri vengono fuori. Esattamente. E infatti tu hai lanciato anche su Twitter questa campagna che io trovo veramente molto molto azzeccata, insomma. L'hashtag è Wondi sono io. In pratica chiunque si può fotografare con il libro di Wondi, guardando poi la copertina capirete perché, magari potete andare anche su radio24.it per capire quello che sto dicendo, perché c'è il tuo viso, Francesca, dal naso in su, mettiamola così, e quindi ci si fotografa mettendoselo sulla propria faccia, questa copertina, per dire Wondi sono io, cioè che tutti noi sostanzialmente possiamo essere eroi quando dobbiamo affrontare qualcosa di difficile. Assolutamente, poi è chiaro che si parla di supereroi sempre in maniera molto ironica e divertente, perché poi siamo tutti persone normali con i nostri limiti ma anche con i nostri superpoteri, e quindi Wondi siamo un po' tutti noi. Per fortuna insomma non c'è bisogno di ammalarsi di cancro. Assolutamente, basta per anche solo supereroi. Portare quattro figli a scuola per me che è già abbastanza, per dire. E allora l'hashtag lo ricordiamo, Wondi sono io, così potete twittarlo anche voi. Partiamo dall'inizio della storia. Tu proprio nel romanzo racconti il primo momento in cui ti sei accorta di avere quelli che poi nel blog anche hai chiamato sassolini. Eh sì, l'ho scoperto per caso e questo mi fa dire subito che è importantissimo, almeno per le donne, ogni tanto l'autopalpazione, perché anche i momenti in cui uno non pensa di poter trovare qualcosa, in realtà, come nel mio caso, appunto, ho trovato questo sassolino. Appena l'ho sentito, chiaramente mi sono chiesta che cosa fosse, poteva essere una cista, poteva essere un tumore, ma mi sono subito allarmata. Ero in vacanza. E quindi necessariamente, insomma, mi sono attivata con urgenza per capire che cosa fosse. Purtroppo nel giro di pochi giorni mi è stato dato l'esito, insomma, il peggiore che potesse essermi dato. Però non mi sono lasciata Abbattere. intimorire, esatto, e sono comunque partita per le vacanze perché avevo un aereo per la Spagna e quindi non ho voluto rinunciare né far rinunciare, insomma, ai miei figli le vacanze, Infatti tanto. c'entrano molto i figli in questo romanzo perché tu stessa racconti che hai chiamato il cancro, anzi in realtà i cancri, i tumori, perché ne hai avuto purtroppo più di uno, sassolini proprio per i tuoi figli. Eh sì, perché comunque quando uno se li immagina, quando anche li vede in un'ecografia, sono dei piccoli pallini, quindi ognuno dà un nome al tumore. Ci sono personaggi, Oriana Fallaci l'ha chiamato l'alieno, chi lo chiama l'amico Fritz, e per me era il sassolino o i sassolini, anche perché per riuscire a far visualizzare anche ai miei figli un qualcosa che comunque è stato tolto e che ha lasciato comunque una cicatrice, mi sembrava il nome meno violento, meno cruento anche da raccontare a loro. Perché si tratta di bambini piccoli che naturalmente non possono, hanno visto la mamma, ecco, perdere i capelli. Anche lì, per esempio, tu lo racconti nel romanzo, hai deciso di non indossare una parrucca quando hai perso tutti i capelli dopo la chemioterapia e dici che l'hai fatto per i tuoi figli. Perché? Ma innanzitutto perché io credo molto nella sincerità, sono una persona decisamente schietta in generale, e figuriamoci con i bambini che comunque capiscono tutto e hanno un'empatia nei confronti della vita molto più forte di noi adulti. E quindi mi sembrava assurdo raccontare una bugia, e soprattutto per esempio avevo un bambino di 2 anni e mezzo che avrebbe potuto alzarsi di notte, venire in camera da letto e trovare la mamma pelata e mentre di giorno c'aveva i capelli. Cos'era un mostro, cioè una mamma aliena, strana. Quindi non mi sentivo di prenderli in giro e anche se vogliamo, io non ero particolarmente preoccupata del mio aspetto fisico. La parrucchiera mi aveva detto che non avevo bozzi sulla testa e quindi avevo un bel crapino, come mi aveva detto, tondo. E quindi, diciamo, non avendo cose Facevi la tua bella strane, figura, potevo insomma. fare, se mi truccavo, insomma, potevo ancora reggere, ecco. I figli c'entrano molto, come dicevo prima, in questo romanzo, ma anche tuo marito, gli amici, insomma, le persone che ti sono state accanto, anche quelle che inevitabilmente si sono allontanate purtroppo quando accadono queste cose. Ed è per questo che in questo romanzo Wandy si alternano momenti di grande commozione, di grande drammaticità a momenti ironici. Giusto per farvi capire, vi leggo proprio 4 frasi. Momento, diciamo, insomma, intenso. Potrei andarmene in ogni momento con un soffio di vento, eppure c'è un filo d'acciaio che non mi stacca da terra e mi tiene piombata al suolo. Sono i miei bambini. E invece l'ironia, per esempio, quando Francesca Del Rosso scopre di avere il tumore, che è in attesa con un ospedale, insomma, per prendere un appuntamento così colà, e scrive nel romanzo. Stavo lì al telefono e sentivo questo attendere, prego. Attendere, prego, attendere, prego. Infatti scrive: attendere, prego, sì, attendo e prego anche. Insomma, quest'ironia si è riuscita a trasferirla anche nel romanzo, ripercorrendo comunque la storia dolorosa che tu hai vissuto negli ultimi anni. Eh sì, in effetti, poi rileggendo il libro mi sono accorta di quanta ironia ci fosse, perché comunque l'ironia è proprio una mia arma, innata. Io affronto così la vita, ce l'ho proprio di default, no? Come si potrebbe dire. Quindi non mi sono neanche accorta che nello scrivere sono riuscita a essere così ironica. Sicuramente il mio obiettivo in questo romanzo era quello di voler regalare anche dei sorrisi. Non voleva assolutamente, non vuole essere un libro strappalacrime, e anzi, tutte le volte che qualcuno mi dice l'ho letto e ho pianto, mi sono commossa, io rimango un po' stupita perché non era esattamente il mio obiettivo. Certo è che vuol dire che sono riuscita ad emozionare, e quindi questo va bene. Sì, io posso dire che si piange con il tuo libro, ma si sorride anche per me.

Nel romanzo fai anche riferimento ad Angelina Jolie, no? Dove dici io un po' come Angelina, Wondi come Angelina, perché tu, come Perché dicevamo io prima, amo Brad Pitt. perché tu ami Brad Pitt, insomma, ti piacerebbe, mettiamola così, insomma. stare al posto di Angelina, tutte noi piacerebbe, e, perché come lei hai questo famoso gene modificato, BRCA1, giusto e Il corretto, peggiore, sì. il peggiore, quindi tu hai una probabilità di ammalarti di cancro al seno enorme, tant'è vero che ti hanno prima fatto una mastectomia da un lato e poi dall'altro, purtroppo. Quando si è creata tutta quella polemica su Angelina Jolie, che preventivamente, no? Si è fatta togliere i seni per non correre il rischio di ammalarsi, tu cosa hai pensato? Io ho pensato che ha fatto bene e soprattutto ho pensato